Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Torino si è mosso verso mezzogiorno il corteo degli studenti, almeno per il momento nessun incidente, tra poco la diretta. L'avvocato David Mills agì per consentire l'impunità a Berlusconi e da lui fu corrotto, lo scrivono i giudici nelle motivazioni della sentenza di condanna. Scaiola avverte la Fiat, inderogabile mantenere i 5 stabilimenti italiani, oggi Marchionne incontra i metalmeccanici tedeschi. I tassi di interesse si adeguino a quelli del resto d'Europa, dice Tremonti alle banche. La replica, sono inferiori alla media dell'Unione. Meritano rispetto, ammirazione e gratitudine, così il Vaticano sugli immigrati. Dopo l'arresto del capo, quello del resto della banda, in manette oltre 100 uomini del clan degli scissionisti. A 10 anni dalla morte di D'Antona parla Napolitano, un dovere ricordare le vittime del terrorismo. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. E buona giornata anche da Simone Spezia. E in apertura dunque parliamo della manifestazione dei movimenti studenteschi antagonisti a Torino in coincidenza con quello che è stato definito il G8 dell'università. Ci racconta come stanno andando le cose in diretta dal capoluogo piemontese, dal luogo dove sta arrivando la manifestazione, Silvia Alparone. Silvia. Sì, buongiorno, i manifestanti sono arrivati ora davanti al Castello del Valentino. Dopo aver sfilato pacificamente per le vie della città, a parte due lanci di uova e di fumogeni di fronte a una vetrina di una banca e di un'agenzia sovranea, ora il corteo si è radunato di fronte al castello dove si sta tenendo il G8 dell'università. Di fronte a diverse decine di metri da loro, lo schieramento della polizia in tenuta antisommossa, sono moltissime unità di fronte ai manifestanti anche nelle vie laterali. Per il momento i due schieramenti si stanno fronteggiando e la situazione è statica. Per il momento linea allo studio e a risentirci più tardi. Grazie Silvia Parone, sicuramente ci sentiremo più tardi nel corso del GR Extra Large. Sentivamo solo qualche lancio di uova e di fumogeni, dunque la situazione pare piuttosto per ora tranquilla, però la città blindata in queste ore. Lionello Mancini in diretta da Torino, com'è la situazione, com'è la città? Sì, buongiorno, sono anch'io più o meno credo nel posto in cui è Silvia, anche se ovviamente non la vedo, e cioè in una traversa, mi sono spostato di via Marconi, la via che unisce dove si entra al Valentino, dove c'è in corso il G8. Allora, la città, diciamo così, questo corteo senza saperlo è stato accompagnato nelle vie laterali, a destra e a sinistra del percorso, da due forti schieramenti di forze dell'ordine. Fino adesso effettivamente non è successo nulla, i negozi sono aperti. Strane nel momento in cui passa questo breve corteo, saranno credo 2-3 mila persone al massimo. I negozi invece in questa zona in cui mi trovo adesso sono tutti rigorosamente chiusi, molte macchine non sono nei parcheggi, insomma il clima qui è piuttosto effettivamente teso. In via Po, dove è partito il corteo, c'erano delle pizzerie aperte e in una piazza poco fa, prima che i primi cordoni del corteo si mettessero i caschi in testa e coprissero il volto, i manifestanti si sono fermati al mercato rionale a comprare della frutta e dell'acqua, pagando ovviamente il conto. Per adesso è tutto. E grazie Lionello Mancini. Dunque, pronti a ricollegarci con te o con Silvia Alparone nel caso succedesse qualcosa alla manifestazione. I nostri occhi si sono puntati in questa apertura di XL sull'esterno del Castello del Valentino, dove però si sta concludendo appunto il G8 University Summit dei Rettori, che raccoglie 41 dirigenti universitari in rappresentanza di circa 3.000 atenei di tutto il mondo, dall'India alla Cina all'Europa. Ma che cosa è successo al di dentro? Di che cosa si è discusso e cosa si è deciso? In questi minuti viene illustrato il documento finale. In una pausa della fase finale dei lavori, Paolo Piacenza ha intervistato il presidente della conferenza dei rettori, Enrico De Cleva. È importante, insomma, che un consesso con queste caratteristiche si sia riconosciuto intorno a alcuni principi fondamentali. Il primo è il ruolo comunque delle università nel mondo contemporaneo. Il secondo è il ruolo dell'università rispetto a uno sviluppo sostenibile e responsabile che venga inquadrato in una prospettiva complessiva, quindi non solo tecnologie, non solo economia, ma anche etica, ma anche attenzione per l'ambiente, ma anche e soprattutto attenzione per la ricerca e per la formazione. Al di là delle polemiche sulle vicende esterne, lei ritiene questo incontro utile e pensa che se ne debbano organizzare degli altri sempre con questa formula, cioè con i soli rettori? Ma guardi, se è discusso di questo, no? che se ne facciano altri è certo, perché si è già deciso che il prossimo summit delle università, che poi non sono 8, sono molte di più e saranno molte di più, si svolga l'anno prossimo in Canada. È stato anche individuato come uno dei punti da sviluppare, trovare forme più attive, più funzionali di collegamento, diciamo, tra chiamiamolo il summit dei rettori, dei presidenti di università e il summit degli studenti. Se queste tematiche vengono affrontate con la dovuta ragionevolezza, diciamo, c'è spazio sia per chi si riconosce nella logica della rappresentanza, sia per chi non vi si riconosce ma ha anche qualcosa da dire, che non siano solo slogan, perché con questi non si fa molta strada nel confronto internazionale. 10 anni fa veniva ucciso dalle Brigate Rosse il giuslavorista Massimo D'Antona, e allora a ricordarlo oggi anche il Presidente della Repubblica. Trasmettere alle giovani generazioni il ricordo delle vittime del terrorismo è un dovere, vittime come Massimo D'Antona che hanno pagato con la vita il loro impegno civile. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nel messaggio inviato alla cerimonia organizzata stamattina all'Università La Sapienza per commemorare il giuslavorista, collaboratore del Ministero del Lavoro, ucciso dalle nuove Brigate Rosse il 20 maggio del 1999 a Roma. Massimo D'Antona, ricorda il capo dello Stato, ha pagato con la vita il suo generoso impegno civile teso a favorire politiche di riforma della legislazione del lavoro. Il Presidente della Repubblica sottolinea poi che trasmettere ai giovani il ricordo delle tante vittime della cieca e crudele violenza del terrorismo politico è un dovere della comunità nazionale per scongiurare ogni rischio di rimozione e per riaffermare valori di dialogo e di legalità. Valori, conclude Napolitano, che Massimo D'Antona ha perseguito sempre con ammirevole onestà intellettuale e passione civile. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Veniamo alla cronaca adesso. Ci sono state due importanti operazioni oggi contro la criminalità organizzata, una nel napoletano, l'altra a Milano. Iniziamo da Napoli, dove sono stati arrestati un centinaio di appartenenti al clan dei cosiddetti scissionisti. Prima il generale, poi il suo esercito. In poco più di 48 ore non solo è stato decapitato il clan degli scissionisti del clan di Lauro, protagonista di una faida con decine di morti, ma è stata azzerata anche la sua truppa. Sono ben 109 le ordinanze di custodia cautelare emesse contro il clan Amato Pagano, presa anche la moglie del boss Ermelinda Pagano di 44 anni. Sabato scorso fu arrestato a Marbella in Spagna il boss Raffaele Amato, il capo della cosca degli scissionisti, ma soprattutto uno dei narcotrafficanti più potenti al mondo. E su questa operazione ecco le parole del capo della squadra mobile di Napoli, Vittorio Pisani. Un'operazione sicuramente importante, realizzata grazie alla perfetta sinergia con l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Procura della Repubblica di Napoli. Un'operazione che va a colpire il clan che in questo momento è il clan più potente della città. E nella notte gli agenti della squadra mobile di Caserta hanno arrestato il boss Franco Letizia, appartenente alla fazione del clan dei Casalesi, capeggiata da Francesco Bidognetti, in carcere sotto il regime del 41 bis. Letizia, uno dei 100 latitanti più pericolosi d'Italia, secondo il Ministero dell'Interno, è irreperibile da oltre un anno, è stato catturato a San Cipriano d'Aversa. Per Alessandro Tocco, vice dirigente della squadra mobile di Caserta, ora il clan Bidognetti è stato azzerato. Perché era l'ultima figura libera del gruppo Bidognetti. Adesso rimangono solamente alcune figure minori che verranno fermate. Paolo Piccone, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E fin qua appunto Napoli. È finita invece a Milano, nel mirino delle forze dell'ordine, una organizzazione legata all''Ndrangheta. Riuscivano a far erogare mutui a personaggi di comodo e ad incassare le relative somme di denaro truffando banche e società finanziarie. In un anno avevano accumulato oltre 800.000 euro. Questo il meccanismo messo in piedi dall'organizzazione legata all''Ndrangheta sgominata dalla squadra mobile di Milano. 15 gli arresti eseguiti su richiesta della DDA. A capo del gruppo c'era Giuseppe Pangallo, 29 anni, di Platì, provincia di Reggio Calabria, esponente di spicco del clan Papalia Barbaro. Base operativa dell'organizzazione Buccinasco nell'Interland milanese, da tempo sotto osservazione per l'infiltrazione mafiosa. E l'indagine svela il dirigente della mobile di Milano, Francesco Messina, promette ulteriori sviluppi. Tra le altre cose abbiamo verificato anche la preoccupante vicinanza tra questo soggetto, questo 'ndranghetista, ed esponenti, insomma, della politica locale, che in qualche modo mantenevano dei rapporti che stiamo adeguatamente vagliando, perché c'è veramente un grosso rischio di infiltrazione, diciamo, di quel contesto politico-amministrativo. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. Il cinema adesso con il Festival di Cannes, applausi tiepidi alla prima proiezione per la stampa del film Vincere di Marco Bellocchio, unico italiano in concorso, secondo i bookmaker però resta uno dei favoriti. È stato folgorato Marco Bellocchio dalla visione di un documentario in TV. Raccontava la vita misteriosa di Ida Dal Ser, amata dal giovane Benito Mussolini e madre di Benito Albino, figlio del duce. E alla storia del Mussolini segreto l'Italia affida le sue speranze di un successo a Cannes. Mi chiamo Ida Dal Ser, Sua Eccellenza Benito Mussolini è mio marito. Gli applausi nella proiezione per la stampa sono stati tiepidi, ma pare che alla giuria piaccia. Il progetto era partito 2 anni fa. Non è stato facile trovare un'attrice che potesse incarnare la forza e la passione di questa donna, incapace di compromessi. La voleva di una bravura mostruosa il regista piacentino e ha trovato Giovanna Mezzogiorno. Mentre Mussolini, forte e coraggioso negli occhi della donna che lo ama, è Filippo Tini. Hai abbandonato nella miseria più nera! Certo che tutto il popolo italiano risponderà! Ancora un film ambientato negli anni del fascismo, quindi, dopo Il sangue pazzo di Marco Tullio Giordana l'anno scorso sempre a Cannes, o Il papà di Giovanna di Pupi Avati a Venezia. Ma non solo, come dice il produttore di Vincere, Mario Gianani. Basti pensare che a Cannes quest'anno in concorso ci sono Tarantino, che ha fatto una riscrittura, diciamo, con Glorious Busters, comunque di un pezzo della Seconda Guerra Mondiale. Michel Haneke racconta una scuola 1914 in Germania dove nasce il nazismo. È curioso, no, che 3 film in concorso a Cannes in qualche modo si svolgono tutti in uno stesso ambito storico. Sono cose che uno non calcola quando fa un film, cioè semplicemente un autore, Marco Bellocchio, ha un'intuizione, parte da un'immagine. Lui è stato molto affascinato da alcune immagini, guardando questa donna, un personaggio femminile molto anticonformista per l'epoca, che non sarebbe stata un'eroina un tempo, invece oggi può essere letta come un'eroina. Quindi vuol dire, è stato tutto non calcolato. A noi interessava andare un po' oltre tutto questo, cioè usare una forma, non imbalsamare il costume, cioè non rendere il costume, diciamo, semplicemente una ricostruzione, e dare una lettura con la forma cinematografica modernissima al costume. Ecco, questa è la nostra sfida. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13:16:49 nella prima parte del GR Extra Large. Abbiamo parlato della manifestazione dei movimenti studenteschi antagonisti a Torino. Tra l'altro a Torino torneremo tra un attimo per capire com'è la situazione. Abbiamo parlato delle parole del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, a 10 anni dall'omicidio di Massimo D'Antona, e abbiamo parlato di criminalità organizzata con i 100 arresti di Camorra di questa mattina e di un'operazione anti-ndrangheta che c'è stata a Milano. Ora appunto torniamo nel capoluogo piemontese. E allora andiamo subito con Silvia Alparone. La polizia e i manifestanti, circa 2-3 mila persone, si trovano di fronte. Che sta succedendo, Silvia? Allora, in questo momento i due schieramenti sono vicinissimi, a pochi metri l'uno dall'altro. Da una parte le forze della polizia in tenuta antisommossa, dall'altra i manifestanti, anche loro nella prima fila con gli scudi, tutti schierati, le prime file con caschi da moto, zaino sulle spalle, e poi vengono le file successive di persone con il passamontagna, manifestanti con il passamontagna, qualche spranga anche nelle prime file, sempre nelle retrovie invece i manifestanti schierati in file regolari. L'atmosfera qui è molto tesa, non è ancora successo nulla, però potrebbero partire i primi scontri a minuti. Per ora è tutto, Dina, allo studio. Grazie Silvia Alparone. Andiamo invece adesso ad un'altra notizia calda, calda della giornata. Sì, perché sarà sicuramente tema di dibattito politico nelle prossime ore. Parliamo delle motivazioni della sentenza per il processo Mills. E ci aggiorna in diretta Stefano Totoro. Stefano. L'avvocato inglese David Mills è stato condannato a Milano a 4 anni e 6 mesi per corruzione in atti giudiziari perché agì da falso testimone per consentire a Silvio Berlusconi e al gruppo Fininvest l'impunità dalle accuse o almeno il mantenimento degli ingenti profitti realizzati. Questo è uno dei passaggi delle motivazioni della sentenza, circa 400 pagine, con la quale il Tribunale di Milano ha condannato il legale inglese. La sentenza, lo ricordiamo, è del 17 febbraio scorso. Mills, si legge ancora nelle motivazioni dei giudici, ha agito certamente da falso testimone, da un lato per consentire a Silvio Berlusconi e al gruppo Fininvest l'impunità dalle accuse o almeno il mantenimento degli ingenti profitti realizzati attraverso il compimento delle operazioni societarie e finanziarie illecite, dall'altro ha perseguito il proprio ingente vantaggio economico. Brevemente, bisogna riassumere la sentenza di febbraio. I giudici in sostanza avevano accolto la richiesta del PM Fabio De Pasquale, che per Mills aveva chiesto 4 anni e 8 mesi per corruzione in atti giudiziari. Corruzione consistita, secondo l'accusa, in $600,000 che Mills avrebbe ricevuto nel 98 dall'entourage di Silvio Berlusconi per rilasciare dichiarazioni reticenti in due vecchi processi milanesi, quello sulla corruzione nella Guardia di Finanza e anche nel processo All Iberian. Resta da capire ancora la sorte della posizione di Silvio Berlusconi, coimputato di Mills per corruzione in atti giudiziari e per il quale il processo è sospeso in attesa che la Consulta decida sulla legittimità del cosiddetto lodo Alfano. Ricordiamo che questo processo è stato caratterizzato da molte tensioni anche con il collegio giudicante. La giuria è presieduta dal giudice Nicoletta Gandus, ricusata senza esito dal Premier per alcune sue prese di posizioni critiche su delle leggi del precedente governo Berlusconi. È tutto. Grazie Stefano. Tra l'altro c'è un aggiornamento dell'ultima ora e sono parole del Presidente del Consiglio, che fa sapere che su questa vicenda riferirà in Parlamento. Passiamo all'economia adesso, Alessio. Sì, la situazione economica. Il ministro Giulio Tremonti ha lanciato un forte richiamo alle banche per spingerle ad aderire ai Tremonti Bond. Ha detto serve un'assunzione di maggiore responsabilità. Parole pronunciate durante il Credit Day. Indicazioni positive sul credito alle imprese arrivano anche dal ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola. Ci fa un riassunto di questa giornata la nostra Paola Cavadi, che l'ha seguita. Paola. Sì, buongiorno. Credit Day è arrivato oggi al suo terzo appuntamento. Governo, banche e imprese fanno il punto sulle misure anticrisi messe in campo fino ad oggi. Il governo ha mobilitato, tra misure di vario tipo, circa 28 miliardi di euro. Sono 4 le banche che hanno fatto richiesta di Tremonti Bond per un totale di 6 miliardi di euro. Da ieri c'è anche Unicredit. Lo ha detto il ministro dell'economia Tremonti, che non ha risparmiato, come dicevate, critiche agli istituti di credito. Troppo disinteressate allo strumento, ha detto, ma sentiamo le sue parole. Faccio notare che quando non c'erano la sollecitazione era a farli, da quando ci sono siamo a maggio e si nota un certo grado di relax. Alle banche il titolare del Ministero dell'Economia ha chiesto anche di riallineare i tassi di interesse alla media europea, ma per il numero uno dell'ABI, Faissola, il problema non sussiste. Sentiamo la risposta di Faissola. Dati in nostro possesso che si riferiscono al mese di marzo, sui nuovi prestiti fatti all'economia, i tassi applicati dalle banche italiane risultano inferiori di 20 basis points ai tassi medio europei. Bene il fondo di garanzia per le imprese. Secondo il ministro delle attività produttive Scajola, nell'ultimo quadrimestre del 2009 si è registrato rispetto al quadrimestre precedente un aumento del 43% dell'uso del fondo da parte delle imprese. In totale queste hanno usufruito di 1,4 miliardi di euro. A margine dell'incontro di oggi, infine, sempre Scajola ha parlato della trattativa tra Opel e Fiat. Il governo pone dei paletti, ma sentiamo le parole del ministro. Alla fine della trattativa fra la Fiat e l'Opel, che ci auguriamo positiva, perché se la Fiat cresce all'estero, cresce anche in Italia, ci sarà un incontro per definire e ascoltare il piano industriale e le intenzioni della Fiat. Per il governo è inderogabile il mantenimento dei 5 stabilimenti in Italia. E queste dunque le parole del ministro Scajola. Grazie Paola Cavadi. Ricordiamo anche che proprio domani scade il termine per la presentazione delle offerte per la Opel in Germania. L'amministratore delegato di Fiat, Sergio Marchionne, è in Germania, sta intensificando gli incontri proprio in queste ore con i rappresentanti sindacali e dei lender dove si trovano gli stabilimenti. L'obiettivo è anche qua rassicurare sul versante dell'occupazione, naturalmente. Vedremo che frutto porteranno gli incontri di Marchionne. E nel frattempo noi torniamo a Torino, dove a quanto pare sono iniziati gli scontri. Silvia Alparone, così? Sì, sono iniziati una decina di minuti fa. Lo schieramento dei manifestanti si è improvvisamente spostato sulla sinistra di Corso Marconi ed è, mi è parso di vedere partire dai manifestanti un lancio di sassi che è stato immediatamente seguito da un lancio di lacrimogeni da parte delle forze della polizia. Ci sono state diverse esplosioni, i manifestanti sono scappati all'indietro, adesso continuano fumogeni ed esplosioni. Per il momento è tutto, aggiornamenti più tardi. E grazie Silvia Alparone, se ci sarà necessità naturalmente torneremo a collegarci con te in questa edizione del GR Extra Large. E noi passiamo a parlare di Abruzzo, Alessio. Sì, oggi il Presidente del Consiglio Berlusconi e il Capo della Commissione Europea Barroso saranno all'Aquila, nelle zone terremotate, dove tra l'altro proseguono anche le proteste di una parte della popolazione per la scelta delle zone su cui ricostruire. Allora andiamo all'Aquila con Marcello Ianni. Sì, buongiorno. Come dicevate voi, atteso nel pomeriggio presso la scuola della Guardia di Finanza qui dell'Aquila l'incontro tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi e il Presidente della Commissione Europea José Manuel Barroso. Una visita attesa quella di Barroso, anche alla luce delle dichiarazioni rese quattro giorni fa dal Commissario Europeo per gli Affari Regionali Danuta Hübner, anche lei in visita all'Aquila, sull'eventualità di riconoscere nei comuni ricompresi nel cratere sismico aquilano una zona franca. Sull'argomento la Hübner aveva detto che ci si trova ancora in una fase interlocutoria volta a definire concretamente le modalità degli interventi. Quindi fondi europei per la ricostruzione, ma anche G8 tra i temi che verranno affrontati. Barroso e Berlusconi raggiungeranno in elicottero Onna, luogo simbolo della tragedia, per una breve visita, poi in macchina alla scuola della Guardia di Finanza. Al termine dell'incontro prevista una conferenza stampa. Infine non si placano le contestazioni dei proprietari terrieri, i quali la Protezione Civile ha notificato nei giorni scorsi l'immissione in possesso delle aree, su cui dovranno sorgere 3.000 case antisismiche destinate a 13.000 sfollati. Anche oggi i residenti di alcune frazioni individuate per la costruzione dei moduli abitativi hanno manifestato vivacemente negli uffici nell'unità mobile del catasto del comune, criticando le modalità di identificazione delle aree, in cui in molti casi sorgono edifici, anch'essi entrati nella disponibilità della Protezione Civile. Per ora è tutto e dall'Aquila vi restituisco la linea. Grazie Marcello Ianni. Dopo lo sciopero, per così dire, dopo la giornata di riposo, oggi il Giro d'Italia ritorna e ritorna in studio il nostro Dario Ceccarelli. Dario. Sì, buongiorno a tutti. Siamo qui per parlare di questa tappa, la Cuneo-Pinerolo, una tappa che è entrata nella storia perché diede le ali alla leggenda di Fausto Coppi, che nel 49 la vinse con un distacco incredibile, 11 minuti su Bartali, e quindi è rimasta lì nella immaginaria di tutti noi. Oggi c'è un'altra Cuneo-Pinerolo, un po' più ridimensionata perché sono state tagliuzzate alcune salite. Però c'è il Sestrier, no? Sì, c'è il Sestrier, che però non è la vera montagna. La montagna era l'Isoard, che già suona come una montagna così. Poi c'era il Vars, c'erano altre cose. Oggi è una tappa lunga, 260 km, con questo Sestrier che fa un po' così da panettone, però il problema sarà il fondo, perché così tanti chilometri vince chi ha più energia. Come ha detto un commentatore, una volta usavano le aquile, adesso i passerotti, perché c'è un po' come dire, un abbassamento della quota, e poi diciamo che rispetto ai grandi corridori del passato c'è stata una scrematura. Noi abbiamo oggi chi possono essere i favoriti, a parte Di Luca, che però non è un fondista, ci sono questi stranieri, Menchov, Lovkist, Sastre e forse il nostro Ivan Basso, che sicuramente è uno che ha le gambe per poter fare un'impresa del genere. 13:33 minuti, GR Extra Large, le notizie di oggi. A Torino ci sono stati scontri al corteo degli studenti contro il G8 dell'università, la polizia ha lanciato dei lacrimogeni. L'avvocato David Mills agì per consentire l'impunità a Berlusconi, da lui fu corrotto, lo scrivono i giudici nelle motivazioni della sentenza di condanna. Berlusconi riferirà in aula. Scajola avverte la Fiat, inderogabile mantenere i 5 stabilimenti italiani, oggi l'incontro di Marchionne con i metalmeccanici tedeschi. I tassi di interesse si adeguino a quelli del resto resto d'Europa, dice il ministro Tremonti, alle banche la replica sono inferiori alla media dell'Unione. Meritano rispetto, ammirazione e gratitudine, così il Vaticano sugli immigrati. E partiamo proprio dai temi dell'immigrazione, andiamo in Toscana. Parità di condizioni nelle graduatorie per gli alloggi pubblici, accesso ai servizi come mense e dormitori anche agli immigrati irregolari. Cure urgenti garantite a tutti, clandestini compresi. E questa è la legge regionale con la quale la Toscana affronta il tema degli stranieri e del rapporto con lo Stato, andando a quanto pare in controtendenza rispetto al modello appena varato a livello nazionale dal governo col pacchetto sicurezza, col DDL sicurezza. Ne parliamo con il presidente della Regione Toscana, Claudio Martini, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. E allora, questa legge che voi avete o state approvando proprio in queste ore? Sì, il Consiglio è convocato oggi pomeriggio e domani, quindi fra oggi e domani esatto. Ci sarà la votazione sull'articolato della legge. L'obiettivo, voi dite, prima di tutto, prima di occuparci dei clandestini, è occuparsi di quelli che hanno il permesso di soggiorno, degli immigrati regolari. Volete integrarli meglio? Che cosa cambia con questa legge? Sì, diciamo, l'obiettivo è questo. Il cuore della legge non è tanto sui clandestini, ci sono degli articoli rivolti anche a loro, ma sono, diciamo, marginali. Il cuore della legge è rafforzare le condizioni di cittadinanza di chi è regolare, perché la nostra preoccupazione è che se la regolarità non è ben inserita, non è ben integrata, si rischia da un lato che possa scivolare verso l'irregolarità e poi non si riesce mai a valorizzare questa risorsa importante. Ho sentito nei titoli di coda anche le cose che dice il Vaticano su questi punti, mi sembra che ci sia sintonia. Quindi la legge prevede di dare piena visibilità e anche un'organizzazione più efficace a tutti i servizi che noi facciamo per gli immigrati regolari, vale a dire le questioni relative alla scuola, alla salute, alla casa, al lavoro, eccetera, in un testo unico che consenta di vedere finalmente tutte le cose coordinate fra di loro. Ecco, Martini, ma la cosa che ci sembra che farà discutere è quella sulla quale si sono concentrate proprio le polemiche dell'ultimo periodo, ossia voi dite l'accesso deve essere ai servizi sociali, deve essere garantito a tutti, anche ai clandestini, ed è stato proprio questo il tema del dibattito sul DDL sicurezza, è così? La legge che state per sì, approvare prevede questo? Sì, noi prevediamo che ovviamente in alcune situazioni urgenti, diciamo eccezionali, legate anche a questioni umanitarie, laddove vi sono questioni sanitarie e sociali di prima necessità, si possa garantire l'accesso a chi risiede in Toscana, indipendentemente dalle sue condizioni. Quindi non è l'organizzazione a tutto tondo dei servizi per chiunque, è relativo a situazioni di effettiva prima necessità. Vogliamo fare qualche esempio? Se c'è qualcuno che ha bisogno del pronto soccorso, che cade per strada, o qualcuno che la notte non è nemmeno in condizione di ripararsi e rischia di morire di freddo, noi dobbiamo assicurare almeno un servizio di assistenza sanitaria e un servizio di primo ricovero, anche temporaneo, di dormitorio che metta in condizione di non rischiare la vita. Questo è il concetto che noi vogliamo esprimere, anche perché vogliamo superare un po' questa discussione un po' troppo legalitaria e andare più sul riconoscimento dei diritti della persona. Qui parliamo di persone, non parliamo di categorie burocratiche. Certo. Questo è lo spirito. Senta, tra l'altro poi voi fate anche varie proposte, tra cui per esempio al Parlamento la proposta per il diritto di voto dopo 5 anni, ma l'obiezione, al di là di questo, l'obiezione che si solleva naturalmente è quella di dire se la Toscana rende più facile la vita per quanto riguarda i servizi sociali ai clandestini, non è che poi, questa potrebbe essere una preoccupazione dei cittadini toscani, si facilita l'accesso e l'afflusso di clandestini verso i vostri servizi, non temete questo? Sì, ho sentito questa obiezione, devo dire non mi convince per nulla, perché i clandestini, quelli che ci preoccupano tutti, cioè quelli che in qualche modo sono anche oggetto di trame della criminalità e dell'organizzazione irregolari, in realtà non prediligono le situazioni dove tutto è trasparente, organizzato e socialmente ben inserito, prediligono le situazioni del sommerso, dell'illegale. I clandestini si concentrano soprattutto dove non ci sono regole, dove si può lavorare nell'ombra, dove c'è qualcuno che li organizza. E noi facciamo il discorso opposto, vogliamo combattere il sommerso, combattere il grigio, combattere il nero, ecco, combattere situazioni dove si possono annidare le organizzazioni criminali, e questo dà più tranquillità a tutti. Devo dire che sono soprattutto proprio gli immigrati regolari che ci chiedono: date cittadinanza piena a noi, noi saremo alleati con voi nella battaglia contro la clandestinità. Io penso che anche i cittadini italiani possono capire l'interesse che tutti abbiamo per una crescita più civile di questo dibattito. E grazie Claudio Martini, presidente della Regione Toscana, per essere stato con noi. Parlavamo appunto delle parole della Chiesa che sono arrivate dal Vaticano oggi, e chiediamo di riassumerle alla nostra Elisabetta Fiorito. Elisabetta. Sì, c'è una nuova presa di posizione della Chiesa sugli immigrati, la loro presenza è indispensabile, sostiene il nuovo presidente del Pontificio Consiglio per i Migranti, Monsignor Antonio Maria Vegliò. Gli immigrati meritano rispetto, ammirazione e gratitudine. Vegliò assicura l'impegno della Chiesa affinché la politica assuma occhi diversi nei confronti dei migranti e spera anche che gli immigrati stessi si rendano conto che tanta gente gli vuole bene. Intanto vediamo il fronte politico. L'opposizione chiede che il ministro degli interni Roberto Maroni riferisca in Parlamento, e da Tripoli interviene proprio Maroni. I servizi segreti libici fanno sapere che i respingimenti hanno fermato le partenze non solo dalla Libia ma anche dalla Tunisia, dall'Algeria e dal Marocco. La nostra politica ha dato i suoi frutti, dice Maroni, e le tre motovedette italiane cominceranno i pattugliamenti dalla Libia. Presto arriveranno anche altre tre imbarcazioni. Sul fronte ONU, Laura Boldrini dell'Organismo per i Rifugiati torna all'attacco. È molto difficile identificare in mare chi ha diritto all'asilo perché in base alla legge Bossi-Fini risulta difficile poter fare una cosa del genere in poche ore e a bordo di una nave. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. Adesso andiamo sulle pagine dei giornali stranieri, come ogni giorno, con Giulia Crivelli. Buongiorno Giulia. Buongiorno. Cominciamo con una questione anche qua che ha a che fare con l'immigrazione e viene dalla Gran Bretagna, davvero dell'incredibile. Sì, il Daily Mail rilancia un po' questa polemica perché il titolo è: i lavoratori britannici che ti spingono a votare BNP, il British National Party, in realtà sono stranieri. Cos'è successo? Che questo British National Party, che è in assoluto il più nazionalista, l'unico partito rimasto a difendere con i denti il fatto che la Gran Bretagna non fa parte per esempio dell'Unione Monetaria, da sempre ce l'ha con l'Unione Europea, adesso va in giro per la Gran Bretagna con questi pullman tappezzati da tre giovani che sono sembrano occidentali, non sono né neri, non sembrano né africani né indiani, sono dei bianchi, però sono americani, e questo è stato molto facile scoprirlo per i giornalisti che erano così incuriositi o interessati a cogliere in fallo questo British National Party così nazionalista, e naturalmente la cosa poi è rimbalzata su tutti i giornali perché è abbastanza assurdo, appunto. E chissà che impatto avrà naturalmente sulle elezioni europee, così come chissà che impatto avrà la vicenda dello scandalo dei rimborsi. Tra l'altro è di oggi la notizia che Michael Martin, il presidente della Camera dei Comuni di Londra, lo speaker della Camera, annuncerà le sue dimissioni. Passando però ad altro, alla vicina Spagna, abbiamo parlato di auto nella seconda parte del GR Extra Large, parliamo degli incentivi di Zapatero. Sì, che è questo degli incentivi è naturalmente un modo che hanno adottato molti paesi, l'Italia, la Germania, anche la Spagna. La Spagna ha una struttura federalista molto complessa, uno strato federale, ripeto, molto complesso, e quindi varare questo piano incentivi, scrive Il Mondo, si sta rivelando molto difficile. E ci sono, è un piano promosso dal governo, però di nuovo poi ci sono le autonomie federali, e quindi alla fine a seconda della regione della Spagna in cui compri la macchina hai un incentivo diverso. Per esempio, scrive Il Mondo, in Navarra addirittura puoi risparmiare 2.200 euro grazie agli incentivi sullo stesso modello di macchina rispetto alla Catalogna, e questo di nuovo innesca il dibattito su quanto in uno Stato federale quali sono le cose che devono comunque essere gestite in modo che siano uguali per tutti e non ci siano disuguaglianze, quali invece poi sono veramente spetta alle regioni, alle singole regioni decidere. Grazie Giulia Crivelli, ci risentiamo a domani. Voi. A Milano, seconda edizione di Music Across, un festival di produzioni originali con progetti sperimentali che mescolano la musica con altre forme di arte. Promosso da Massimo Zanello, assessore alla cultura della Regione Lombardia e sotto la direzione artistica di Caterina Caselli, questo festival musicale prevede 3 nuove produzioni. A partire dall'opera Independence Live with Orchestra per 3 sere fino al 21 maggio, per continuare il 28 maggio con lo spettacolo al Teatro Arcimboldi degli Avion Travel, che stiamo sentendo in sottofondo, che con l'Amico Magico vogliono rendere omaggio alla memoria del compositore Nino Rota nel 30° della sua scomparsa. Infine, dal 29 maggio, Live Across Indie Nights, 2 serate per immergersi nella musica indie italiana ed europea. Adriana Fracchia ha intervistato proprio Caterina Caselli, le ha chiesto prima di tutto perché il festival si chiama Music Across. Music Across perché mi piace pensare a una musica che si muove e che senza steccati e senza compartimenti stagni. Mi piace avere rispetto della musica, della propria peculiarità, ma poi mi piace anche vedere dei lati in comune, cioè la famosa contaminazione, sempre nel rispetto proprio del genere. E quindi Music Across proprio perché musica attraverso anche altri linguaggi, per esempio. Musica trasversale, insomma, questi linguaggi che si mettono insieme e danno vita a qualcosa di abbastanza innovativo, insomma, è sicuramente è un'esperienza veramente molto vibrante. Insomma, trapela un grande entusiasmo dalla sua descrizione. Effettivamente saranno delle serate un po' speciali che normalmente non si riesce, insomma, non è così facile poterle vedere. Insomma, Caterina Caselli, che è stata una scopritrice di grandi talenti, prosegue in questo percorso alla ricerca di novità e di nuove cose nella musica. Mi piace, sono molto curiosa e mi piace molto vedere insieme realtà che magari non creare delle occasioni di incontro. La vita è l'arte dell'incontro, dico sempre io, e quindi anche nella musica questo può essere, come dire, una buona direzione da seguire. Le 13:47 minuti 34 secondi, andiamo in Medio Oriente. Sì, siamo, come anticipavamo, all'incontro di ieri tra il premier israeliano Benjamin Netanyahu e quello americano Barack Obama, un incontro nel quale sembrano essere affiorate più divergenze che concordia, soprattutto per quanto riguarda lo Stato palestinese. Per capire come viene valutato dal mondo israeliano questo incontro, ci colleghiamo in diretta con Gerusalemme, con il nostro Sergio Minerbi. Buongiorno Sergio. Buongiorno. E allora quali sono le valutazioni che emergono dopo questo importante incontro? L'incontro Obama-Netanyahu, che è durato in tutto circa 4 ore, ha messo in evidenza certamente le divergenze esistenti sulla questione palestinese. Israele è convinto che finché il Hamas dominerà la striscia di Gaza non ci saranno possibilità di intesa con i palestinesi. L'autorevole quotidiano Haaretz intitola su tutta la prima pagina Obama a Netanyahu, fermate gli insediamenti. Israele Yom, un altro quotidiano, titola Obama proporrà una pace regionale e la normalizzazione coi paesi arabi nel prossimo discorso di Obama al Cairo del 4 giugno. Nel frattempo il problema più assillante per Israele è l'arma nucleare alla quale mira l'Iran. Obama avrebbe rifiutato la richiesta israeliana di porre una data limite al dialogo con l'Iran, ma ha aggiunto che se non ci saranno progressi fino alla fine di quest'anno, egli giudicherà se imporre pesanti sanzioni internazionali all'Iran. Sergio Minerbi, GR24 e Sole 24 Ore, Gerusalemme. Grazie a Sergio Minerbi. Ascoltiamo invece come hanno valutato le cose i giornali arabi. Adib Fateh Ali. Acrobata, abile schivatore, ingannatore, razzista sono solo alcuni degli appellativi con cui la stampa araba definisce il premier israeliano Benjamin Netanyahu per l'esito del faccia a faccia con Barack Obama avvenuto ieri alla Casa Bianca. Media e giornali moderati si mostrano molto delusi per la mancata riuscita di Washington di convincere Netanyahu di accogliere la soluzione dei due stati e il blocco degli insediamenti, fallimento che avrebbe complicato la missione di Obama per mobilitare gli arabi contro l'Iran. Nessuna delusione invece per la stampa schierata su posizioni antioccidentali come il filo siriano Al-Safir, che se la ride per l'ingenuità degli arabi di avere sperato nel principale alleato dell'eterno nemico. Adil Fatah Ali, GR 24, Il Sole 24 Ore. Abbiamo parlato poco fa di un festival musicale che si apre a Milano, però la crisi economica si fa sentire anche su un particolare tipo di manifestazioni, quelle estive. Saltano alcuni appuntamenti, sentiamo. Chissà se la musica è davvero finita. Quel che è certo è che non ci sarà nessun Heineken Jamming Festival 2009. L'evento che vanta 11 edizioni e più di 1 milione di spettatori non si farà. Roberto Giuliano, Group Brand Manager di Heineken. Il perdurare di questa crisi economica è una situazione senza precedenti anche per noi. Il fatto di non essere stati in grado di individuare un cast adatto alle dimensioni e alla tradizione della manifestazione ci hanno portato a non individuare delle soluzioni che offrissero sufficienti garanzie di successo. Dopo che Italia e i budget comunali hanno ridotto i fondi per eventi e rassegne, adesso anche gli sponsor dei grandi concerti gratuiti dell'estate iniziano a centellinare gli investimenti. Così quest'anno salta anche la manifestazione Cornetto Free Music Live, organizzata da Algida. Sipario chiuso già dal 2008 su Telecom Certo. Telecom infatti ha scelto di spendere in modo mirato sulla tecnologia. Ma qualche nota ha rotto il silenzio, quelle del Net Geo Music Live, il concertone ad impatto zero che si è tenuto ad aprile a Roma in occasione dell'Earth Day. Simona Biglino, director dei canali National Geographic. La crisi non influisce in un senso di scelta, perché abbiamo scelto di comunque fare un evento di quel genere rispetto a fare una campagna pubblicitaria oppure altre cose. Abbiamo scelto di fare un live perché secondo noi è il modo migliore per raggiungere alcuni target che in televisione o con gli altri mezzi comunque non potresti raggiungere. Più di 120.000 spettatori all'evento che avrebbe potuto aprire la stagione musicale e che invece rischia di rappresentare un'eccezione, la voce fuori dal coro che per ora ha smesso di cantare. Micaela Nasca, GR24, Il Sole 24 Ore. Torino al corteo degli studenti, scontri con la polizia. L'avvocato Mills agì per consentire l'impunità a Berlusconi, da lui fu corrotto. Lo scrivono i giudici nelle motivazioni della sentenza di condanna. Scaiola, alla Fiat nessuno dei 5 stabilimenti italiani deve chiudere. Tremonti alle banche, tassi di interesse troppo alti, la replica dell'Abin sono inferiori alla media europea. Meritano rispetto, ammirazione e gratitudine, così il Vaticano sugli immigrati. GR Extra Large è tutto per questa edizione, curata e condotta da Alessio Maurizi. E da Simone Spezia. Il coordinamento di Daniele Biacchessi, in regia Valeria Bernardi. Prossimo appuntamento con le notizie alle 15. GR Extra Large torna naturalmente domani. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.